mi ha fatto piacere che l'arbitro abbia notato, ecco, però io in cuor mio non pensavo, ripeto, di aver fatto un gesto così importante, tra virgolette, ecco. Forse lo è stato, però come dicevamo prima, ormai diamo tutto per scontato, però forse siamo arrivati a un punto che certe cose non vengono neanche più considerate così strane, però lo sono. Tra l'altro, grazie a questo colpo di classe, devo dire, di Cifelli di Campobasso, ricordiamoci il nome di quest'arbitro, sì, perché spesso ce li ricordiamo per le polemiche alimentate dalla Moviola. Ma è stato molto bravo anche lui, devo dire, perché l'ha gestita molto bene anche lui dopo, perché si è accorto, ma non ha fatto troppe scene, troppe cose, l'ha gestita nel modo giusto, è stato bravo. E tant'è che grazie al suo referto, tra l'altro, il Ravenna ha avuto proprio uno sconto sull'ammenda, proprio perché il tuo abbraccio a Wolembo è stato registrato dall'arbitro e quindi, diciamo, la sanzione è stata mitigata, no? Sì. Sono venuto a conoscenza anch'io di questo particolare. Beh, insomma, la società sarà contenta, dai, gli ho fatto risparmiare un po' di soldi, di tempi.